and never shall have lamp of life enough to rain upon remembrance with my eyes, that I may grow and sprout as high as heaven for recognition to my noble husband. E non avrò mai abbastanza lacrime da far piovere sul mio ricordo perché cresca fino al cielo in memoria del mio nobile marito, my noble husband. Era la prima volta che mettevo piede su un palcoscenico. Fu una pessima recita. Era un dramma di Shakespeare, ma gli occhi di tutta la platea ridevano. Ridevano di me, del mio dramma. Tutti sapevano come Emilio mi avesse ingannato e io recitavo la parte della sposa follemente innamorata. Un personaggio. Ecco cos'era diventata. Un personaggio di cui avrebbero riso in tutti i salotti. E invano ti direi in gridare aiuto, ma poiché indietro non si torna, render potrai solo corna per corna. No, la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso non avrebbe mai chiesto aiuto a quelle parrucche ipocrite. Quella sera capii che il tempo dei giochi era finito. L'ingenua sposa tradita dal bel principe lasciava la scena all'inizio della commedia e non ci sarebbero state repliche. Nessuno mi avrebbe mai più incatenata un copione. Poche notti dopo ero al galoppo in un bosco della Versilia vestita da uomo assieme a un giovane patriota a ritirare un carico di 316 fucili. Cos'è che decide quali parole, quali momenti della nostra infanzia ricorderemo e quali dimenticheremo per sempre? Non mi torna alla memoria nessun volto, nessuna corsa sui prati, nessuna bambina con cui giocare. Solo il profumo di rose di mia madre e una cipria soffiata nell'aria. Il singhiozzo che mi stringe la gola se qualcuno mi chiede di parlare. E quel dolore alle palpebre per lo sforzo di fissare il buio prima di addormentarmi. Gli occhi chiusi di un ragazzo che si avvicinano ai miei. Il mio primo bacio, pensai, lo ricorderò per tutta la vita. Invece ricordo solo quel pensiero. E un'altra prima volta. Quel calore doloroso, quel solletico sotto l'ombelico come uno sciame di farfalle in gabbia e la parola sussurrata da mia madre a un'amica: epilessia. Una bambina malata, sommersa dai sogni e dai libri, che si commuove immaginando una vita di passioni, di fuga in mondi lontani. Volevo vivere tutto, volevo essere tutto. E allora tutto dovevo conoscere. Mi ubriacai di scienza, di storia, di musica. E quando cominciai ad ascoltare di nascosto le frasi bisbigliate in casa: quella è una spia degli austriaci, l'hanno arrestato ieri sera, la riunione per stanotte, capii che il romanzo era fuggito dai libri ed era lì in quelle stanze, stava entrando nella mia vita. Ma non lo diedi a vedere. Recitai con entusiasmo la mia parte nel mondo, mi lanciai nelle feste, le serate a teatro, i concerti alla Scala. Ero così graziosa. Mi chiamino pure adorabile civetta, non farò niente per smentirli. Anzi, voglio atteggiare i miei grandi occhi a un costante stupore, così da farli apparire ancora più grandi. Accetterò la grazia del petto inclinando il collo. Sarò discreta, spiritosa, profonda e frivola. Mia madre era la donna a cui volevo somigliare. Scompigliava i capelli di Bellini, gli carezzava la mano per farlo sedere accanto a lei al forte piano. Volteggiava con le sue ampie gonne filettate d'oro. Era l'immagine della bellezza. Come bellezza pura erano i versi dei poeti, la musica, l'idea di patria, di libertà. E apparve Emilio, una voce d'angelo, uno sguardo che ti carezzava gli occhi, i riccioli d'oro fin sulle spalle, un principe bellissimo e patriota. Nessuno danzava, nessuno cavalcava, nessuno duellava con tanta eleganza. Tutte le donne lo desideravano. A me, così esile e gracilina, le prince charmant non rivolgeva mai lo sguardo. Mi esaltò l'idea della sfida. Misi in campo tutte le mie armi, la verginità, il sottile erotismo della conversazione, e fui la principessa Cristina di Belgioioso. Avevo 16 anni e la vita divenne l'avventura che avevo sognato. I complotti, i messaggi nascosti tra i capelli, e di notte le scorribande con lui vestita da uomo con un pugnale nella giarrettiera. Conquistato Emilio, adesso volevo sedurre il mondo, essere ovunque, nei teatri e nelle bettole, ai balli e nelle congiure. Volevo scandalizzare, soccorrere i deboli e combattere i tiranni. Ero la bella e nobile eroina di un feuilleton che aveva trovato il suo compagno di giochi. Emilio. La prima notte non fu come l'avevo sognata. Non ci fu poesia, non ci fu tenerezza. Troppi bordelli aveva frequentato, troppe labbra esperte l'avevano baciato. Ma io sarei diventata la sua unica dea dell'amore. L'avrei educata a un culto esclusivo, come diritto di tutte le dee. Un'altra notte da sola. Anche quella sera era uscito con il suo amico, il conte dei bordelli. Guardo il buio da ore come da bambina e di nuovo sento dentro di me quel dolore, quel volo di farfalle impazzite, ma non caddi nella disperazione. Fino a quella sera in cui i medici, quasi vergognandosi, pronunciarono un'altra parola, la parola che mi sarebbe rimasta accanto per sempre. La parola dalla quale non esiste commiato. Sifilide. Il male dei bordelli, delle donne di strada. Sifilide. E la mia giovinezza, e la mia vita, una vita di cure, di vergogna, di piaghe. Emilio mi propose di convivere con la sua amante. Gli risi in faccia, pagai tutti i suoi debiti passati e futuri e lo cacciai, ma non mi separai da lui. Vedo un fiore profumato, lo avvicino al naso, il fiore mi punge in testa, io lo allontano dal viso, ma poiché sono io ad averlo raccolto, non lo butterò via. Lo metterò in un vaso o in una serra, ma certamente mai più sotto il mio naso. E non rinunciai alla recita. Sapevo che quella sera, la prima della scala, mi aspettavano sorrisi ipocriti, sguardi di compassione, e allora indossai davanti a tutti la mia maschera, non per nascondere, per esibire la verità. Ero più bella e più pallida che mai, sola in quel palco dorato, tutta vestita di nero. A lutto per la morte di un sogno. Però anche un altro abito ricordo, di velluto viola al gran ballo in maschera. L'ultimo ballo con Emilio, il suo mantello verde, le piume bianche del cappello, mia madre che danza fiera, felice, con le nuvole di organza, di seta, i carnivi, gli azzurri, i turchesi. Ma come poteva tutta quella bellezza finire? Com'era possibile immaginare che l'incantevole viso di Emilio l'avrebbe stravolto la follia? Che la sua voce d'angelo si sarebbe trasformata nel rantolo di un demente? E che mia madre sarebbe morta vittima del suo culto di eterna bellezza con la gola squarciata da un'orribile piaga, quella sciagurata operazione che doveva liberarla dal doppiamento? E io, come potevo pensare che l'ombra di una ruga avrebbe turbato il candore della mia pelle? Che il mio collo sottile l'avrebbe piegato un brutale colpo di lama? Che la mia schiena così ammirata l'avrebbero carezzata e succhiata le sanguisughe? Restava solo il buio la notte e quelle febbri, quella spossatezza. Ero seriamente malata. La sofferenza mi sarebbe rimasta accanto per sempre. Tanto voleva farne un'amica e trovare la maniera di farla tacere, come si fa con un'amica quando diventa troppo invadente. Avevo bisogno di aria, di luce. Dovevo partire subito, senza nemmeno salutare mia madre. Senza pietire permessi al governo austriaco. Avevo perduto Emilio, ma moglie aveva ancora un nome. Come poteva il governatore non concedere il passaporto a una Trivulzio, figlia di Gerolamo, conte della corona ferrea, pronipote delle Grand Trivulzio, maresciallo di Francia? Sospettasse pure il capo della polizia, il barone Torresani, qualche missione segreta, spargesse fango su fughe d'amore con giovani amanti. Un viaggio, un lungo viaggio con un'unica certezza. Ero destinata a vivere sola, né sposa né madre, semplicemente libera. Uomo libero, ha un suono così dolce. Perché donna libera nasconde sempre qualcosa di vizioso, di libertino? La mia ansia scompare d'incanto quel pomeriggio in cui Adelaide Mameli mi lasciò cullare il suo piccolo Goffredo e mentre si addormentava sulle mie braccia la sua manina carezzava la mia guancia, si soffermava sulle mie labbra. Conversare di nuovo di astronomia, di politica, di storia, ma quanti fumi di mercurio. Quante ore sfinite in poltrona per trovare ogni sera la forza di uscire e tornare a quei discorsi. La notizia della mia malattia aveva corso più veloce della mia carrozza. Erano tutti così gentili con me. Sapevano che mi restava poco da vivere. E io ritrovo l'energia e la forza di reagire. E anche merito tuo, barone Torresani. Mi volevi congiurata? Eccomi allora maestra giardiniera. Mi volevi libertina? Eccomi circondata d'artisti, cospiratori, massoni. E perfino sorridere all'incantevole Teresa Guiccioli, che prima di essere anche lei congiurata era stata l'amante di mio marito. Se quel inesorabile segugio del Torresani, così certo di saper penetrare nei cuori dei suoi indagati, avesse immaginato la noia che provavo a quei riti di profeti barbuti, di giovanetti esaltati. Solo il freddo del pugnale sulla coscia mi fece trasalire al ricordo delle mie scorribande notturne con Emilio. Arrivarono giorni convulsi che a stento riesco a mettere in fila le corse in carrozza, a portare ordini, nascondere armi. La malattia non riusciva a tenere il mio passo, ma mi aspettava puntuale accanto al letto ogni sera. Incontrai un celebre medico che mi consigliò la sua clinica in Provenza. Avevo deciso di diventare assennata, avrei dovuto pensare soltanto alla mia salute, dovevo partire subito. Ma Ma per l'Austria ero ormai una nemica. Ritiro del passaporto. Una spia sempre dietro i miei passi, due gendarmi notte e giorno davanti alla porta e al confine di Nizza già pronto un mandato d'arresto. Una sacca con pochi gioielli, una fuga veloce da una porta sul retro e via nella notte al seguito di un vecchio avvocato, compagno di lotta. Esordivo nel gran melodramma italiano. L'esule in fuga febbrile, l'addio al passato, l'abbraccio con l'ignoto destino. Anche se quella sera l'ouverture suonò le note dell'opera buffa. Inseguiti da sciami di insetti, con la mia veste leggera straziata dai rovi, usciamo dal bosco. Il Varo, il confine con la libera terra di Francia, il mio Rubicone. Avessi un cavallo almeno come Giulio Cesare. Mi fermo, guardo l'avvocato negli occhi, inclino graziosamente la testa. Lui all'inizio fraintende, poi alza gli occhi al cielo, sospira paziente, si china e attraversa il torrente con me a cavalcioni. Alea iacta est! Lo dissi sottovoce. La casa di cura in Provenza, tra gli alberi, sul mare. Un balsamo per tutti i miei mali. Tra gli ospiti un uomo bello e malinconico, da poco divenuto cieco. Thierry, il grande storico che aveva fatto a Parigi la rivoluzione di luglio. Ero incantata dalle sue parole. Sono le anonime moltitudini, quelle che fanno i grandi mutamenti, non i re o gli imperatori. La stampa è più utile alla lotta politica di qualunque congiura. Masseur mi chiamava. Seduti all'ombra discorrevamo ore e ore di medicina, di storia, del cappellino di un ospite, dei colori del mare. Lui vedeva attraverso i miei occhi e io, grazie alle sue parole, cominciavo a capire come l'idea di libertà si potesse realizzare al di fuori di ogni utopia. E poi mi accorgevo che Thierry si stava innamorando di me e mi piaceva l'idea di affascinare un uomo solo con le parole. Un giorno passeggio tranquilla e vedo disteso per strada un operaio svenuto per la fame e la principessa del Sacro Romano Impero, l'unica erede del più gran patrimonio di Lombardia, prende a inveire contro la ricchezza e chi la possiede. Come una delle mie periodiche febbri, riesplode la smania dell'azione. Un comitato di insurrezione di esuli italiani sta armando un esercito per marciare in Savoia. Ascolto di nuovo quelle frasi retoriche, quei proclami così lontani da un popolo intero costretto nell'ignoranza. Le mie opinioni non vengono nemmeno prese in considerazione. Firmo due lettere di credito a finanziamento dell'impresa e diligentemente cucio il tricolore che svetterà la testa dell'armata. Naturalmente, la notizia del mio coinvolgimento arriva subito alle orecchie del barone Torresani. In convento, urlava, più invasato di Amleto. Alto tradimento, che torni subito a Milano e che si faccia monaca, pena la morte civile e il sequestro di tutti i suoi beni. Quell'ometto, basso, tarchiato, che storceva confessioni con la verga e col bastone. Quanto avrebbe voluto possedere e torturare anche me. Nessun poeta, nessun libertino mi avrebbe mai bramata tanto in tutta la vita. Immaginavo le sue mani sudate aprire le mie lettere, i suoi occhietti smaniosi leggere in ogni mia frase congiure sanguinarie o promesse oscene. Perfino Metternich tentò invano di placarlo. Il suo tormento era invincibile, sublime nella sua sconcezza. Dovevo fare immediatamente qualcosa. Donare fittiziamente tutti i miei beni liquidi a persone di cui mi fidavo. Le care sorellastre li usarono per fare più cospicua la dote e il mio adorato Emilio... Quante signore avranno ceduto davanti a fiumi di champagne e quanti postriboli in quei giorni a Milano avranno esultato all'unisono. Per quanto riguarda l'ossessione poliziesca del Torresani, ormai era diventata un puro delirio. Quella sfrenata messalina che vaga per l'Europa seguita da un manipolo di giovani drudi, ebra di droghe e di sangue, e ottiene finalmente il sequestro di tutti i miei beni immobili. Non possedevo più nulla, sola, in miseria e per di più minacciata d'arresto. Mi restava però un piccolo tesoro, un foglietto di presentazione di Thierry al suo amico Lafayette. Parole così dense di elogi e di affetto, la lettera d'amore che non avrebbe mai avuto il coraggio di indirizzarmi. Ero a Parigi, al freddo, in un sottotetto, ma lontana dai miei persecutori. La femme italienne, pallida, misteriosa, dagli occhi febbrili. E la mia piccola casa divenne subito alloggio di artisti e letterati. Principessa e rifugiata, la condizione perfetta per un'eroina tragica. Del resto, sulla mia piccola testa pendeva davvero la minaccia dell'ergastolo, se non della forca. Sparsi qua e là per la casa, crocifissi, pugnali, un antico trattato sui veleni e un teschio comprato a pochi soldi al mercato. Quanto alla povertà, applicavo la regola più elementare dell'economia. Quando non si ha denaro, non bisogna spenderne. Sapevo anche mantenermi da sola. Insegnavo ricamo, disegno, musica alle giovanette del quartiere. Io conoscevo il valore di una moneta del secondo secolo, ma non quella di un pezzo da 5 franchi. Non avevo mai cucinato un uovo in tutta la mia vita. Oh, la mia prima frittata! Davanti a quel colore ambrato, a quella forma perfetta, mi assalì la stessa felicità, la stessa fierezza di un David all'ultima pennellata. E di nuovo le crisi, la lingua e le labbra morsicate a sangue, ma ormai sapevo come sopportare, come reagire. E la sofferenza e le guance esangui davano il tocco finale al mio personaggio. Accolsi esuli, clandestini, politici. Lafayette era un vecchio signore un po' ridicolo, con delle ciocche di capelli bianchi che sgusciavano da un'enorme parrucca nera. Era così, così premuroso, così attento, così galante. Si rivelò più maldestro di me quando volle aiutarmi in cucina. Ci contendevamo quasi tutti i giorni posto ai fornelli. Lui gridava perché io non ubbidivo ai suoi consigli e io mi lagnavo del grave inconveniente di avere come squattero l'eroe di due rivoluzioni. Subito si spettegolò del nonno innamorato e della principessa sfortunata. Bon sesso malheureuse, l'avevo affisso sulla porta di casa. Niente più carrozze, niente livree. Però sul mio tavolo, tra libri e cipolle, sbadatamente giacevano ricami di seta, piccoli vasi di Sèvres, le superflu, choses si nécessaire. Una sera, all'opera, all'ingresso sulla scena di un grande cantante italiano, mi alzai dritta in piedi e quando finì di cantare, ricaddi ad occhi chiusi, in deliquio. L'applauso del pubblico fu diviso tra l'omaggio all'artista e quello alla dama vestita di nero portata fuori a braccia. Lafayette vide la scena e ne restò folgorato. Lui, che spendeva fortune per mantenere schiere di giovanotti che quando passava per la strada lo applaudivano, riconobbe subito il talento di una prima donna. Come un vero impresario, cominciò col portarmi in piccoli salotti, corressi alcuni difetti di recitazione, finché fui pronta per teatri più grandi. Una sera, nel salotto di Madame Récamier, ad ascoltare Chateaubriand che leggeva le sue memorie d'oltretomba, nel silenzio commosso che seguì, lei con molta grazia chiese la mia opinione e io con la medesima grazia risposi: mi sono annoiata a morte. Madame trasalì, Chateaubriand fu conquistato e Lafayette mi sorrise. L'allieva aveva superato il maestro. Beh, abbassai anche un po' la testa pur di rivedere i miei beni. Accolsi perfino un delegato del governo austriaco perché riferisse più in alto: oh, come si sta meglio a Milano sotto l'Austria che nella libera Parigi. Io, che esibivo la mia povertà per mostrare ai francesi la crudeltà della tirannide austriaca. Io che mi infervoravo contro i privilegi di nascita e attendevo fremente il ritorno dei beni di famiglia. È lecito contraddirsi, basta che la contraddizione non cada sulla stessa pagina. Madame de Staël. Le mie simulazioni e maneggi di Lafayette ottennero l'insabbiamento del processo e la riconsegna di parte delle mie proprietà. L'attrice era pronta, poteva finalmente permettersi un palcoscenico all'altezza della sua bravura. Piacere ad assomigliare a un fantasma col suo pallore spettrale, gli occhi neri le escono dalle orbite, ostenta abiti così scollati e vaporosi da far pensare che un pugnale si nasconda tra le pieghe. La Belle Joyeuse è una cortigiana e, ahimè, anche un intellettuale. Cammina come fosse dentro una cornice. Il suo appartamento sembra arredato da un impresario di pompe funebri. Milanese verdastra, femmina perversa, mente feroce. Cosa può mai saperne della passione una carnagione rosata? La passione scolora, congela le vene. Come può il dolore del verso di un poeta penetrare in un cuore giocondo? Sì, In quegli anni a Parigi fui la femme lumineuse che fa dei cuori senza scottarsi le dita. Fui la giovane arrogante che ride di Shakespeare, genio selvaggio, barbaro, incolto. Ma fui anche l'amica generosa che accolse esuli, clandestini, nei fogli delle spie. Fui Madame Ghigliottina che protegge gli assassini. Fui la comunista demente che finanzia col suo patrimonio l'abolizione di tutti i patrimoni. Fui anche l'amica generosa che accolse di nuovo l'uomo che era stato suo marito. Dissipata la mia donazione, adesso Emilio era l'amante della figlia di un ciabattino. Accolse entusiasta il mio invito. Corro alla capitale del piacere. Emilio, Emilio, tante volte ho pensato che tu fossi davvero senza peccato, che anche le tue folli bugie fossero di una incomprensibile purezza. Fui la malata esausta che trova conforto nell'oppio e nell'erba del demonio. Fui la zingara selvaggia che carezza e intreccia i suoi riccioli neri con quelli di Georges Sand. Fui la principessa maliziosa del quadro di Hayez. Andromeda incatenata alla roccia, nuda sulla tela di Chassériau. Fui la Fedora senza cuore di un velenoso Balzac. Fui la San Severina di Stendhal. E fui madre a un fantasma, a quest'ombra di donna. Permettete di non parlare delle mille stupide voci su un padre poeta o storico, musicista o marinaio, di una piccola vita generata in un'orgia o comprata da un servo. Permettetemi di tacere su questa unica mia verità, semplice e dolce come il nome che diedi a mia figlia, Maria. La accolsi come un naturale miracolo, come lo sconvolgimento più grande della mia vita. Tornai a Locate, la terra dove ero nata e dove volevo che Maria corresse felice. Ma neanche per lei trovai compagni di giochi. Li vedevo piegati al lavoro, i figli dei miei contadini, sporchi, coperti di stracci. Provai vergogna dei vestitini di mia figlia, gli occhi spauriti di quei bambini. Furono quegli occhi, quei corpi gracili e malati, a darmi la forza terribile di creare nelle mie terre asili, scuole, mense, ospizi per gli orfani, infermerie, corsi di agraria, di musica. Quei bambini e quelle ragazze senza allegria, senza futuro, che fino ad allora avevo guardato solo dietro tende damascate. Adesso tastavo loro la fronte, suturavo ferite, insegnavo e imparavo a parlare alla loro fantasia, alla voglia di conoscere che neppure sospettavano di avere da qualche parte nel cuore. No, il popolo non era quello delle crasse risate dei proprietari terrieri, né il popolo incorrotto, incorruttibile, pronto al riscatto di Mazzini. Un popolo analfabeta, stremato, costretto a vivere come le bestie dall'alba al tramonto, ma come poteva rincorrere grandi ideali? Andava prima sfamato, curato, istruito. Perché non lo capivano? Perché restavano sordi, illetterati, patrioti? I sospiri del conte Confalonieri. Oh, ecco un'altra prova della sua pazzia. E l'ironia del Manzoni. Andè, quando saranno tutti dotti, a chi toccherà zappare la terra? E lì, nella mia terra, mi accadde qualcosa di inaspettato. Qualcosa a cui io non sapevo dare il nome. 20 anni, pallido, malato di tisi, soave nei modi, leggeva il latino, l'arabo, l'ebraico, sapeva di storia, di economia. Gaetano Stelzi. Le mie idee si specchiarono nelle sue e i suoi occhi nei miei. Quando caddi in un ennesimo male, l'idropisia, fu lui tutti i giorni a prestarmi le cure. Lui, sempre presente a ogni mia spillatura di liquidi. E io ai suoi attacchi convulsi di tosse. E quei giochi la sera, le contese accanite a chi ricordava di più frasi di malati illustri. Finché una sera felice mi vinse citando Lord Byron. Ah, quanto vorrei morir di tisi. E fu anche preziosa placare la mia nuova febbre, la frenesia di scrivere articoli, appelli, trattati. Tradussi e commentai Vico, scrissi su Sant'Agostino, il mio saggio sul dogma cattolico subito messo all'indice. Invitavo i credenti ad abbandonare la superstizione per ricevere dalla ragione una fede ancora più certa. E diventai per quelle anime pie la prova vivente dell'esistenza del demonio. Criticai nella storia lombarda le congiure da salotto dei patrioti milanesi, Gioberti, il suo primato del genio italiano. No, noi non siamo i primi in Europa, siamo gli ultimi. Fondai i giornali, scrissi che gli uomini non appartengono ad altri uomini, che il popolo non è proprietà del sovrano. Ma il popolo dormiva, nessuno più sembrava in grado di risvegliarlo. Bellico, passato dalle celle dello Spielberg a quello dei frati, snocciolava rosari e poesie religiose. Degli altri cari fratelli, tutti concordi, Mamiani e Mazzini in testa, nel dire che era un ripugnante abominio scrivere in un giornale diretto da una donna. E si allungava il grazioso catalogo sulla mia persona. Teologhessa, novella bradamante, pazza esaltata. Fino a che un giorno, quando tutto sembrava perduto, una luce improvvisa e dal seggio più alto della cristianità, Pio IX, un papa liberale e patriota che risveglia un popolo intero, che bandisce crociate ma contro i tiranni, annuncio che suona alle mie orecchie come un inno di guerra. I tiranni non temono l'ombra delle congiure, ma il raduno di un popolo in armi alla luce del sole. Abbandono Locate, affido Maria alle cure di Stelzi e volo verso la rivoluzione. Per decreto di popolo, Napoli aveva abolito la notte. Per tutte le strade a migliaia correvano torce, dal falò si alzavano scie di faville impazzite. Un'intera città che canta, che balla, s'abbraccia. Dalle carrozze si sporgono dame con le fiaccole in mano. Libertà, libertà! Dai vicoli, cortei di bambini, viva la Costituzione, i maccaroni! Quei comizi, Brindisi, al Vesuvio, a Masaniello, a Pio IX, a me! Conoscevano tutti la mia persona, la bella gioiosa, la principessa patriota. Una serenata sotto al balcone, il grido di un vecchio camorrista: sì, siamo pronti a combattere per la principessa e per la Costituzione. No, dovete correggerlo, non per me, Don Michele, per la patria. E quel giorno, alla fine di marzo, quel grande silenzio sospeso, il mare cosparso di barche, sul molo in migliaia a sventolare bandiere, una nave stipata di giovani decisi a seguirmi per combattere con gli insorti a Milano, la coperta che splende del balenio delle armi, centinaia di uomini e donne pronti ad ascoltare le mie parole, pronti a lasciarsi infervorare. Cos'è l'emozione della più grande attrice del mondo paragonata alla mia? E quale palcoscenico, quale spettacolo più grandioso di quello che stavo vivendo? Un'attrice regala al suo pubblico i gesti di Fedra, di Cleopatra. Io offro al mio popolo il mio vero volto. È un annuncio all'Europa. La vittoria delle cinque giornate non è un'isolata rivolta, ma è l'alba dell'insurrezione di tutta l'Italia. Arrivo a Milano a cavallo, seguito dal mio piccolo esercito, stordita dagli applausi e dalle salve di fucile. Come erano fieri i miei concittadini. Aspettavano in armi il ritorno degli austriaci. Ma il re piemontese temeva i volontari. La paura che un popolo in rivolta privasse gli aristocratici delle ricchezze, se non delle teste. I miei straccioni napoletani salvano da un agguato l'esercito regio e per loro nessun encomio, nessuna medaglia. Io amavo i repubblicani, però pensavo l'unità d'Italia ha bisogno di un capo, di un unico simbolo per tutti, nobili e popolo. Me lo vidi davanti quel simbolo, in strada. E non era un concetto, non era un sovrano. Travi, bauli, banchi di scuola, paraventi di seta e paglierici sfondati, botti d'osteria e divani di porpora, un cocchio dorato e un fortepiano. Il tempio di una fede comune, il mosaico di un popolo intero. Gli austriaci preparano l'attacco. Carlo Alberto ritira le truppe, riconsegna Milano al nemico e fugge, inseguito da sputi e da spari. Tra i furori del popolo mi sorprendo a gridare: la casa Savoia è come il Borbone, la Repubblica è l'unica strada. Presto orecchio a proclami che fino ad allora mi sarebbero apparsi follia. I Carlo Alberto, i D'Azeglio, i Balbo sono loro gli artefici della nostra ruina. Appetiscono solo d'essere servi di corte, d'andare a messa col re, di ricevere in dono un ciondolo d'oro, sdraiati come in un letto di rose sull'etamaio della servitù nazionale. E la mia voce gli fa eco: se vincono i moderati, l'Italia è perduta. Correvo tra magazzini, cucine, infermerie, curavo i feriti insieme a Cattaneo, a toccare le mani dei morti, scoprire che erano mani callose di artigiani, di operai. I moti sono opera solo di aristocratici, venditori di menzogne. Venite a ripeterlo davanti a tutte quelle donne trucidate, ai corpi di una modista, di una levatrice, di una cucitrice ancora bambina. Poeti, interrogate questi di sepolcri. Gli austriaci calpestano di nuovo Milano. I monarchici preferiscono la sconfitta alla Repubblica. E a quel lutto di popolo se ne unì un altro, che fu solo mio. Gaetano mi aveva raggiunta assieme a Maria. Non si era più dato tregua, il male gli aveva divorato i polmoni. Mi morì tra le braccia senza un lamento. Sentii un sottile calore bagnarmi la guancia. La prima lacrima della mia vita. Prima di inchiodare la bara, ordinai che fosse imbalsamato e che un ovale di cristallo preservasse al mio sguardo quel giovane viso che dormiva sereno. Volai in carrozza allocata e col feretro accanto. Volevo averlo vicino. Gli avrei costruito una tomba all'interno della mia casa, per portargli dei fiori al mattino, per trattenermi la sera a conversare con lui. Ma neanche questo mi fu concesso. I gendarmi che irruppero in casa cercando non so più che cosa, aprendo una piccola porta, vedendo quel viso che appariva dal vetro, sparsero voci orribili. E i contadini, i miei contadini, raccontarono ai figli la favola oscena della principessa che ogni notte riapre la bara dell'amante mummificato e lo copre di baci in un letto cosparso di fiori. Fuggì di nuovo, ancora a Parigi. Supplicai Luigi Napoleone di venire in soccorso della nostra causa. Era lui, il giovane patriota con cui avevo corso al galoppo in Versilia quella notte lontana. Ma, princesse, Pourriez-vous douter de moi? Poi tacque. Ma era il suo sguardo a parlare. Come l'aveva corrotto il potere. Come invece la pietà scaccia i vizi dal cuore. Un morente, affidatelo senza timore alla samaritana che ha pianto, perché ne avrà cura come se ne fosse madre o sorella. Chiusa in un vecchio ospedale durante l'assedio, la Repubblica Romana, l'ultima causa per la quale era giusto morire. Notte e giorno in piedi, tra piaghe e cancrene, e non mi furono di nessun aiuto gli infermieri, uomini rozzi, quasi sempre ubriachi, né i chirurghi, criminali o incapaci, né il Consiglio di Sanità fatto di tonache, asini e ladri. Solo le donne romane che accorsero in tante alla mia richiesta di volontarie. Certo, anche le prostitute. Mi capitava la notte di aggirarmi tra le corsie con gli occhiali e la bacchetta in mano a interrompere conversazioni che diventavano troppo intime. Ma insieme all'impudenza, quanta pietà. Ho visto le più depravate, le più corrotte restare inchiodate al capezzale di un moribondo senza abbandonarlo né per mangiare né per dormire. Le ho viste sottoporsi ai doveri più ripugnanti, sopportare i capricci e le imprecazioni dei feriti, mentre sulle loro teste le pallottole di Luigi Napoleone si incrociavano. Potreste dubitare di me, principessa? In 2 giorni organizzai 12 ospedali, ma non c'erano strumenti chirurgici, non c'era etere per lenire il dolore. I feriti morivano tra convulsioni atroci. Io conoscevo la sofferenza, ma quello spettacolo sotto i miei occhi e il terribile pallore di Maria che era al mio fianco. Ci fu una notte, la più buia di tutte. Era disteso tra gli altri feriti, una gran barba scura e gradi di capitano, ma io riconobbi subito i suoi occhi chiari. Goffredo, poco più di 20 anni, una gamba in cancrena per la sbadataggine di un infermiere. Avevo cullato bambino, lo abbracciai, lo cullavo adesso per l'ultima volta. Delirava. E come allora aspettai che si addormentasse tra le mie braccia. Della verità e della giustizia giunse a tal punto da ostacolare l'opera e disprezzare l'autorità dell'eccellentissimo clero dell'urbe, e talora costrinse i poveri infermi in lotta con la morte a privarsi dei conforti della religione e rendere l'anima tra gli allettamenti e le lusinghe di una sfacciata meretrice. Papa Pio IX, enciclica Noscitis et Nobiscum. Santo Padre, vi sono ingiurie che da qualunque altezza discendano rimangono sepolte nel fondo, tra il fango e la lordura a cui somigliano. È certo possibile che nella moltitudine di donne che confortavano i feriti ve ne fosse qualcuna di dubbia moralità, ma la Signoria vostra si degnerà di considerare che io non disponevo della polizia sacerdotale per scrutare nei segreti delle famiglie. Avrei dovuto scacciarle se io non adorassi i precetti di quel Dio che, fattosi uomo, non disdegnò che una donna dai perversi costumi gli ungesse i piedi. Nessuno dei feriti morì senza i conforti di un prete. E se la signoria vostra ne è all'oscuro, non lo sono certi i vostri cardinali, perché furono proprio loro a imprigionare nelle carceri del Sant'Uffizio i preti che avevano confortato i feriti. Colgo l'occasione per porre ai piedi di vostra signoria l'umile obbedienza della mia rispettosa venerazione. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Tutto era spento per sempre. Il rumore degli spari, le grida di dolore, di entusiasmo, le allegre bestemmie delle donne romane. Adesso vedevo altri volti, leggevo altri sguardi. Sguardi di odio dei monarchici perché avevo tradito la loro idea. Fastidio dei repubblicani perché avevo tardato ad abbracciare la loro. Disprezzo dei moderati perché avevo lottato accanto a terroristi. Rancore dei triumviri perché avevo denunciato la loro incapacità. L'Austria mi voleva umiliata, bastonata seminuda davanti agli ufficiali. E tra me e quella Francia che avevo tanto amato si stendeva un nero mare di sangue. Io mai più scriverò o leggerò di storia, perché la storia è falsa e la verità non vive lo spazio di un minuto. Cancellerò il ricordo di tutte le mie vite passate. Cavalcherò su un superbo cavallo. Visiterò stupende regioni dove non incontrerò più traccia di opera umana. Sarei più veloce di tutti i miei mali, delle ferite dell'anima e del corpo. Thierry mi scrisse accorato: «Ma sir, non bruciatevi le ali come una farfalla». No, la farfalla si brucia se ferma il suo volo, ingannata da una piccola fiamma che confonde col sole. A questo inganno la patria. Tornare. Ogni luogo sconosciuto per me aveva il fascino di un ritorno. Smirne sembrava sorgesse dal mare in una notte più chiara di tutti i miei giorni in Europa. I minareti sfidavano il cielo più audaci dei campanili più alti. L'Anatolia mi apparve un luogo più dolce delle mie terre lombarde. Mi innamorai di una valle che già vedevo coperta di viti, di grano, di riso. La mia fattoria, una colonia agricola nel cuore dell'Asia. Lì avrei accolto i patrioti, lì sarebbe cresciuta Maria. Assieme a contadini turchi, esuli italiani, coltivai la terra, pascolai il bestiame, costruì stalle, granai. Ah, quei giorni così laboriosi e quelle notti stregate dai fumi di magiche erbe. Le mie sanguisughe oziavano. Non mi toccò il più piccolo spasimo, non mi toccò la fatica, nemmeno per migliaia di chilometri in carovana fino a Gerusalemme a battezzare Maria. Montagne di ghiaccio, gole infuocate, foreste di melograni, una tempesta di sabbia e le galline di un villaggio che la notte mi camminano sulla faccia. Avrei voluto vederli lì, accanto a me, senza acqua, bruciati dal sole, coi medici che mi avevano dato pochi anni di vita. A Tarso la vita la rischio davvero in una sventata caccia alla tigre. A Damasco scopro l'hashish. Lo fumo, lo bevo, lo mangio e organizzo serate di danza del ventre. Ad Aleppo passo in rassegna a cavallo le truppe del Pascià. Ho visto predoni, villaggi bruciati, un vecchio mercante appestato con la sposa bambina sulle ginocchia, donne chiuse in misere capanne borbottare versi gutturali. E nelle città, qui celebrati bazar, Bui casermoni sprofondati nella melma, ripieni di ninnoli e spezie, vesciche di muschio, code di lucertola profumata che danno la stessa sonnolenza improvvisa dei sermoni dell'abate Gioberti. Oh, potevo esimermi dal visitare gli harem? Il puzzo, l'aria stantia, le finestre oscurate, le sensuali odalische dei nostri pittori. Al primo sfiorire il loro padrone compra al mercato la schiava più bella e ne fa la sua favorita. Ecco il destino della donna orientale. Chi potrà mai conoscere gli odi, le gelosie mortali dietro quelle maschere così graziose e i crimini senza rimorso dentro quelle mura nerite dal fumo? Solo le ragazzine dell'arma a viso scoperto erano di una bellezza straziante. Una su tutte, le pupille scure brillavano di allegria, i dentini di perla, le fossette sulle guance da bambina. Non riuscivo a distogliere gli occhi, la testa graziosa inclinata. Dio, il mio ritratto a 20 anni. Il suo padrone fissava l'arido paesaggio dietro il velo che l'oppio stende su tutto. Mi venne una sete improvvisa di verde. Oh, potermi vedere uno specchio d'acqua che riflette un boschetto. Avrei dato tutti i minareti d'Oriente per un bell'albero della mia Lombardia. Mi butto sui pochi giornali che arrivano da Costantinopoli, le notizie da Parigi, la politica, perfino le inserzioni. Spedì lettere, articoli, note di viaggio, finché una notte jeté assassiné. C'era al mio seguito un italiano, tale Lorenzoni, che da tempo perseguitava Miss Parker, la governante di mia figlia. Minaccio di scacciarlo, lui sembra pentito. Ma quando rientro nella mia stanza sento i suoi passi che mi seguono. Mi giro, mi alita in faccia, mi spinge dentro la stanza e urla: non è quell'inglese che voglio, ma te! Nemmeno mi accorgo del coltello. Mi colpisce all'inguine una volta, poi un'altra. Barcollo, mi affonda la lama nel petto, sento il sangue che mi gorgoglia in gola, sta per colpirmi di nuovo, alzo la mano, sento il ferro contro le ossa, mi spinge sulla finestra, cado tra pezzi di vetro, lui mi è sopra e mi urla all'orecchio: muori perfida, muori! E io sento la lama penetrarmi nel collo, qui sotto la nuca. Lo vedo scappare. Mi alzo e crollo sul letto, per un po' non vedo più nulla, sento solo le grida, i pianti. Mamma, non morire, ti prego! Chiedo un piccolo specchio e una sonda, la infilo nel petto. La lama non ha lacerato i polmoni. Mi cucio da sola, una a una, tutte le ferite. Le mie sanguisughe! Io non so cosa provavo. Ma la mia forza, la mia intelligenza erano triplicate. Dopo 3 giorni ero in piedi, senza più febbre. Affrontare i più grandi pericoli in tutto l'Oriente e finire accoltellata da un bergamasco. La principessa in rovina ci passò davanti. Il suo corpo era orribile a vedersi, la vertebra sporgeva dal collo, gli occhi vuoti ardevano avidi. Il bentornato di Louise Collet, amante fra le molte di Flaubert, che un tempo fremeva di rabbia a ogni pagina dedicata a me. Si era eletta ispiratrice di Anne Bovary e il povero Gustave, costretto a fuggire tra le piramidi a gridare ai posteri: «C'est moi! Madame Bovary, c'est moi!» Il genio del rancore femminile aveva fatto di lei quasi una scrittrice. Insegue la bellezza per tutta la vita, ci si distrae un attimo e la vecchiaia ci ha già raggiunti. Quel lampo che mi ha fissato per sempre sul viso un'espressione che non avevo mai conosciuto. Chi è quella signora ingobbita? E questa la donna che di ogni uomo diceva: o mi ama, o mi ha amato, o mi amerà. Dove è finita la superbia di rappresentare un'intera nazione agli occhi del mondo? Solo lo sguardo non è ancora domato. La fotografia è più vago, più amico lo specchio. Ci tolleriamo, invecchiamo insieme. Non lo coprirò come la bella contessa, l'invincibile armata di carne spedita dal cugino Camillo a satollare Napoleone. Ma bellezza, che stupida illusione. L'Italia è unita e il tricolore su ogni balcone. Ma quando io vedo quei tre stupendi colori adornare gli anellini donati dal mio re a dame compiacenti, io torno ancora a fremere dei miei antichi furori. L'Italia è unita. Io scrivo, leggo, converso, fumo il mio elisir. Maria è andata a sposa un bravo uomo e io ho perdonato tanti avversari di ieri. Pochi eroi ho amato davvero. Garibaldi. Gli scrissi dalla mia tenuta di Smirne: generale, se l'angoscia del vostro esilio dovesse prolungarsi, volgete la prua verso Oriente e venite ad abbracciare un'amica. Ma come potevo pensarlo? Lui non conoscerà mai la vecchiaia. Sarà sempre il biondo generale che sprona il cavallo a inseguire la sua giovinezza. Io che epitaffio scriverò sulla mia tomba? Non mi imprigioneranno in un sepolcro di marmo. Sulla pietra il titolo di principessa, ma il corpo nella fossa comune, assieme ai miei contadini. Voglio tra i denti la terra delle mie radici. Voglio che i vermi nutrano l'erba con la mia carne. Che rinasca qualcosa di me ogni primavera. So già che diranno: due tombe, s'era riconciliata con tutti meno che con se stessa. Che ridano, ridano pure della mia vita e della mia morte. Io ormai guardo le cose del mondo come se fossi puro spirito e le vedessi giù dalle nuvole. Ma è troppo silenzio, mi inquieta. No! Io non permetterò che si rida di me! Non l'ho mai tollerato! Denise pretese di disegnare la mia caricatura, lo cacciai dalla mia vita, non ve lo riammisi mai più! Si vendicò il poeta. È morta e non ha mai vissuto. Dalle sue mani è caduto il libro da cui non ha letto niente. Preferisco questi lugubri versi a una risata di scherno. Non ha mai vissuto. Mille vite ho vissuto. Ovunque io guardo, io non vedo una donna che non sia derisa e umiliata. Le schiave bambine comprate al mercato non sono diverse dalle fanciulle che io ho visto correre nude nei giardini dell'imperatore di Francia, la caccia alle cerve. L'Italia unita, sì, pacificata. Era questo il mio sogno. Ma il popolo ha solo assistito a battaglie di eserciti e lo governano uomini senza innocenza e senza grandezza. Verrà un tempo in cui i popoli decideranno del loro destino e la fede sarà carità e ragione e i suoi ministri si dedicheranno al bene dell'anima e non a parate gioielli. Oh, perché non ero anch'io a ballare con le donne romane al suono delle cannonate che hanno fatto crollare il regno di quel Pio che ha ghigliottinato gli ultimi patrioti? Prego, ma non stringo rosari. No, non amo il Cristo crocifisso coperto di sangue. Amo il Cristo risorto davanti alla peccatrice. Mai un suo ritratto felice avrà pur sorriso carezzando un bambino. Quella stupenda preghiera affissa in una chiesa di Roma. Dio, fammi ridere. I dolci fantasmi dei tanti che ho aiutato a morire mi invitano con un sorriso. C'è la pace nei loro occhi, c'è il perdono. Io ne avrò la forza? Sono davvero tutti i miei fratelli, gli uomini, i martiri e i tiranni? No! Non riuscirò a perdonare! Io non conosco la passione. L'ho simulata. L'ho provocata per godere la gioia di sentirmene illesa. La mia vita è una beffa di tutto e di tutti. In ogni uomo io ho visto l'inganno. In ogni possibile amore, il contagio che mi ha rubato la vita. Se non avessi incontrato Emilio, se la mia giovinezza non fosse morta quella notte, forse sarei stata felice. Una sposa devota, una vittoriosa rassegnazione. Dio, ti ringrazio del male che mi hai donato. Benedico quel morbo che mi ha impestato, le piaghe e le febbri che mi hanno devastata. Ti sono grata per quell'annuncio che mi ha costretta a fuggire da un vuoto destino di oca da salotto, dalla pena di inutili giorni tutti uguali. Quell'annuncio di morte mi ha dato la vita e mi ha fatto sorella di infelici e di oppressi. Io benedico il mio male, la sua nascita, la costanza del suo dominio. Io non temo la morte, ma qualcosa di più orribile della morte. Temo l'oblio. Guardo il buio come quella bambina impaurita e ho ancora paura che l'ultimo sonno cancelli per sempre il mio nome, le mie parole. Resteranno solo stupide voci su una tale principessa ricca, epilettica e capricciosa. Non mettetemi a letto! C'è Maria. C'è sua figlia Cristina. E me stessa a 20 anni che mi guardo da un quadro. È l'unico ritratto in cui io sorrido. Gli occhi rotondi sono così belli. Vorrebbero sorridere in eterno. Una parola, una frase da lasciare per sempre alla storia! E Maria che mi stringeva la mano, non capì il perché di quell'ultimo sorriso. Non fu un sorriso, ma il nascere di una risata che restò sospesa sul mio viso. Mi era tornato alla mente un pensiero dello sciocchezzaio di Flaubert. Nel momento supremo, sforzarsi di pronunciare una frase memorabile. Flaubert aveva riso del mio sforzo supremo. Aveva riso di me. E io avevo riso con lui.